Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i beni sonori e audiovisivi. Fausto Paravidino legge Ho servito il re d'Inghilterra di Bumil Rabal. Introduzione di Mario Desiati. E adesso fate bene attenzione a quello che ora vi dico. Iniziano così tutti i capitoli del romanzo Ho servito il re d'Inghilterra. Si tratta forse di uno dei romanzi più roenti, più vorticosi di Bumil Rabal. Il libro uscì in Italia nel 1986, ben 15 anni dopo l'edizione cecoslovacca, che era stato un grande successo in patria. Fu e diventò immediatamente anche un grande successo, un libro di culto nell'Europa occidentale e in Italia. Il protagonista del romanzo si chiama Jan Ditie, è un cameriere. E narra la sua vita a cavallo tra gli anni 20 e gli anni 30. Siamo nella città d'oro per antonomasia, Praga, il centro anche delle città del Triangolo della Morte. Sono anni molto particolari perché è un'Europa che sta cambiando. L'Europa sta diventando il focolaio di nuove e soprattutto sanguinarie dittature. Praga è una di quelle capitali europee nelle quali si sente tantissimo, si avverte quello che è un po' il presagio di ciò che accadrà anni dopo. Jan ha una caratteristica: è piccolo, è povero e soprattutto Jan lavora e fa vedere di lavorare come un pazzo. Fa questo per molti alberghi e di albergo in albergo ne combina di tutti i colori. Jan infatti è disordinato, è loquace, è uno straordinario cialtrone, un contaballe, un inventore di realtà parallele, un donnaiolo. Unisce, diciamo, il suo impeto, lo stesso impeto che lui ha, per esempio, per la bambola gonfiabile primavera, che lui, con quale si possono... ci sono tanti giochi di parole a un certo punto del romanzo, arriva la primavera, ma non arriva la primavera, arriva una bambola gonfiabile a un certo punto. Lo stesso impeto lo utilizza nel servire il sovrano d'Etiopia. È il sovrano d'Etiopia circondato da cuochi neri, che dotati di scimitarre e camerieri in una livrea coloniale. La mia fortuna è sempre dipesa dal fatto che mi capitava qualche disgrazia, dice a un certo punto Jan nel corso del romanzo, e infatti sono i guai uno dei fili conduttori di questo libro. Di guai ne combinerà sempre tanti, addirittura in uno di questi viene coinvolto quello che rappresenta uno dei monumenti sacri di Praga, ossia il Bambino d'Oro. Ma i guai lui non li fa soltanto in questi posti, li fa anche in posti molto meno sacri, come i casini della città magica. Beh, i casini della città magica vengono continuamente visitati dal nostro protagonista, hanno un ruolo importante in questo libro. Però c'è un problema: Jan è basso e la sua statura cozza con le sue aspirazioni. Per avere un po' di donne e un po' di potere, capisce che l'unico modo per averlo è diventare milionario. Ed ecco, l'ossessione per il proprio fisico nasce anche da uno strano clima che si respira in quel periodo. È il clima in cui si fa largo l'immagine pura, in cui compare la razza, l'idea di razza ariana. È quella alla quale Jan, piccolo e scuro, non potrà mai essere ammesso. Eppure esiste un'altra razza ariana, ed è la razza ariana dell'anima, a cui Anne anela, e quella la si può proprio raggiungere con il potere del denaro. Questa debolezza, questa sua fame di soldi, gli costerà caro, e in un emozionante tourbillon di avventure, Jan si troverà addirittura ad amare una tedesca, e dovrà superare anche delle umilianti prove per avere il permesso dal Reich per sposarla. Scena madre, il matrimonio in un tripudio di bandiere naziste. Jan non sarà mai ariano e, come tutti gli eroi della letteratura, le sue luci e le sue ombre lo condurranno a scelte che sorprenderanno quello che può essere anche il più scafato lettore. Ho servito il re d'Inghilterra è sicuramente un romanzo scoppiettante. È scritto in una prosa che vira su due registri, quello del flusso di coscienza, quasi un parlato ad alta voce. È come se qualcuno stesse raccontando un aneddoto in un'osteria. Infatti Rabal è un grande raccoglitore di aneddoti di osteria, oltre ad essere stato un grandissimo alcolizzato e si vantava di questo suo alcolismo. Ed eccolo, ce lo immaginiamo che racconta la storia di Jan davanti a un pubblico di avvinazzati. E poi c'è anche un altro registro, un registro che forse per comodità io chiamerei poetico, dove il lettore si immerge in quelli che sono veramente i colori e gli odori di un'epoca particolare, di una città che viene pennellata continuamente da delle metafore, dove le donne vestono di mussolina, vestono capi d'abito colorati, con i colori di Non ti scordarti mai in primavera, e gli uomini si bagnano il naso con la schiuma della birra come se fosse la neve. State attenti a quello che adesso vi dico. Quando arrivai all'hotel Praga, il capo mi prese per l'orecchia sinistra e tirandomela dice: «Qui tu sei piccolo di sala, perciò ricordati, non hai visto niente, non hai sentito niente. Ripeti». E così dissi che al lavoro non vedevo niente e non sentivo niente. E il capo mi tirò per l'orecchia destra e disse: «Ma ricordati anche che devi vedere tutto e sentire tutto. Ripeti». E così ripetei stupito che avrei visto tutto e sentito tutto, e così incominciai. Tutte le mattine, alle 6, eravamo in sala, una specie di schieramento, e il signor hotelier arrivava, a un lato del tappeto stavano i maître e i camerieri, e in fondo io, piccolino, proprio come un piccolo di sala, e all'altro lato stavano i cuochi e le cameriere dei piani e le sguattere e la credenziera, e il signor hotelier ci passava accanto e guardava se avevamo le pettorine pulite, e i colletti e i frac senza macchie, e se non mancavano bottoni, e se le scarpe erano lucide, e si chinava per accertare con l'olfatto se ci eravamo lavati i piedi. Poi diceva: «Buongiorno signori, buongiorno signore». Ed ecco che non dovevamo parlare con nessuno, e i camerieri mi insegnavano come si avvolgono coltello e forchetta nel tovagliolo, e io pulivo i portacenere, e tutti i giorni dovevo lucidare il cestello di latta per i würstel bollenti, perché io andavo a vendere i würstel bollenti alla stazione. Me l'aveva insegnato un piccolo che aveva finito di fare il piccolo. Ormai aveva cominciato a lavorare in sala. Oh, quello aveva chiesto non poco di poter continuare a portare i würstel, mi era sembrato perfino strano, ma poi avevo capito. Non volevo far altro che portare Würster bollenti lungo i treni. Quante volte al giorno davo la coppia di Würster per una corona e 80 col panino, ma il viaggiatore aveva solo un biglietto da 20, qualche volta da 50, io non avevo mai spiccioli, anche se li avevo, e così continuavo a vendere, finché ormai il viaggiatore saltava sul treno e raggiungeva il finestrino e tendeva il braccio, e io prima di tutto poggiavo i Würster bollenti e poi facevo tintinnare in tasca gli spiccioli, ma il viaggiatore urlava che mi tenessi gli spiccioli e che gli restituissi soprattutto le banconote, e io lentamente cercavo quelle banconote nella tasca, e il capo movimento già fischiava, e allora lentamente tiravo fuori quelle banconote, e il treno era già in moto, e io correvo lungo il treno, e quando il treno ormai era in corsa, allora alzavo il braccio, e quasi quasi quelle banconote toccavano le dita del viaggiatore proteso, alcuni si sporgevano fino al punto che qualcuno nello scompartimento doveva tenerli per le gambe, uno addirittura batte la testa su un palo, un altro su un pilastro del rifornimento, ma poi le dita si allontanavano veloci, e io mi fermavo trafelato con la mano tesa dentro la quale stavano le banconote, e quello era il mio momento. Ben pochi viaggiatori ritornavano per quei quattrini, e così cominciai ad avere denaro mio. Dopo un mese erano già 200 corone, alla fine ne avevo perfino 1000, ma dopo le 6 del mattino e la sera prima di dormire il capo veniva a controllare se mi ero lavato i piedi, e già alle 12 dovevo essere a letto, e così incominciai a non sentire, e tuttavia a sentire tutto, e incominciai a non vedere e a vedere tutto intorno a me. Vedevo quell'ordine e quella regola, la gioia del capo quando per finta facevamo i nemici, quando mai che una cassiera potesse andare al cinematografo con un cameriere era licenziamento in tronco, e conobbi anche i clienti in cucina, quel tavolo di clienti fissi, ogni giorno dovevo pulire i boccali dei clienti fissi, ciascuno aveva il proprio numero e il proprio simbolo, boccali con un cervo e boccali con le violette e boccali con una cittadina e boccali a spigoli e boccali panciuti e una brocchetta di ceramica con la sigla HB addirittura da Monaco, e così ogni sera veniva quella compagnia di eletti. Il notaio, e il capo della stazione, e quello del tribunale, e il veterinario, e il direttore della scuola di musica, e il fabbricante Ina, e tutti li aiutavo a mettere e a togliere il cappotto, e quando portavo le birre, ogni boccale doveva finire nelle mani di quello cui apparteneva, e io mi meravigliavo di come la gente ricca riuscisse a chiacchierare tutta la serata, magari del fatto che fuori città c'era un ponticello, e che lì accanto a quel ponticello 30 anni prima c'era un pioppo, e a quel punto cominciava, uno diceva che lì non c'era il ponticello, che lì c'era solo il pioppo, il secondo che lì non c'era il pioppo, che lì non c'era un ponticello, ma soltanto una tavola con un corrimano, e così duravano a sorseggiare birra, a chiacchierare su quel tema e a gridare e insultarsi, tutto però come per finta, perché già da un lato del tavolo urlavano che lì c'era il ponticello e non il pioppo, e dall'altro che lì c'era il pioppo e non il ponticello, ma poi si rimettevano seduti e tutto era a posto. Loro urlavano solo perché la birra fosse ancora più buona. Altre volte litigavano su quale fosse la migliore fra le birre di Boemia, e uno diceva la Protivine, un altro la Vodiani, un terzo la Pslene, un quarto la Nimbruk, la Krusovic, e così si urlavano addosso un'altra volta. Ma tutti si volevano bene, e urlavano solo perché succedesse qualcosa per ammazzare in qualche modo il tempo della sera. Poi ecco che il capostazione si chinava mentre gli davo la birra e bisbigliava che il veterinario era stato veduto dalle signorine dei Paradiso, che aveva preso una stanza con la Jaruska, e il direttore della scuola media bisbigliava che il veterinario c'era stato, sì, ma non giovedì, bensì già mercoledì, però con Blasta, e così ecco che tutta la sera chiacchieravano solo delle signorine dei Paradiso, e chi c'era stato e chi non c'era stato, e io quando li sentivo quei loro discorsi non mi importava niente, se fuori città ci fossero stati il pioppo, il ponticello, oppure il ponticello, non il pioppo, oppure solo il pioppo, neppure se fosse migliore la birra di Branice o quella di Protivin, e non volevo vedere niente e sentire niente, nient'altro che vedere e sentire com'era lì dai Paradiso. fece il conto dei soldi e continuava a vendere quel booster bollente, tenendo da parte i soldi sufficienti per potermi azzardare dai paradiso. Alla stazione ero addirittura capace di piangere, e siccome ero così piccolino, un perfetto piccolo, mi facevano un gesto e mi lasciavano i soldi pensando che fossi orfano, e così in me maturava il piano che un giorno, dopo le 11, dopo essermi lavato i piedi, me la sarei svignata dalla cameretta attraverso la finestra e sarei andato a vedere dai paradiso. Quella giornata cominciò in modo violento al Città d'Oro di Praga. La mattina venne una compagnia di zingari, erano vestiti bene e siccome erano calderai e avevano soldi, sedevano a un tavolo e prendevano tutte le cose più buone e ogni volta che ordinavano qualche altra cosa facevano vedere i soldi. Il direttore della scuola di musica era seduto accanto alla finestra e siccome gli zingari gridavano se ne andò a sedere al centro del ristorante continuando a leggere un libro. Doveva essere un libro tremendamente interessante perché quando il direttore si era alzato per andare tre tavoli più in là aveva continuato a leggere quel libro anche mentre si stava sedendo, leggeva, aveva trovato la sedia a tastoni continuando a leggere e io pulivo i boccali dei clienti fissi, guardavo contro luce, era ancora mattina, solo minestre e goulash a un paio di clienti. Il fatto che tutti i camerieri, anche se non avevano niente da fare, dovevano sempre far qualcosa, così come pulivo io con tanta cura e anche il maître in piedi metteva in ordine le forchette nella credenza e il cameriere si era messo a riordinare piatti e posate. E ora, sotto la finestra, come guardavo fuori attraverso un boccale con Praga d'Oro, vidi correre degli zingari infuriati e ora irruppero nel nostro Praga d'Oro e probabilmente già in corridoio avevano tirato fuori i coltelli. E ora fu una cosa terribile, corsero verso gli zingari calderai, ma quelli, come se li aspettassero, saltarono su tirandosi dietro i tavoli. Quei tavoli li mettevano sempre davanti a sé perché quegli altri zingari coi coltelli non li prendessero. Ma nonostante questo, due erano già stesi in terra, nella schiena avevano un coltello piantato, e quelli coi coltelli come colpivano, così anche tagliavano, anche sulle braccia, e così anche i tavoli erano già pieni di sangue, ma il direttore della scuola di musica continuava a leggere il libro, sorrideva, e quel turbine di zingari rombò non attorno al direttore, bensì sopra di lui. Gli insanguinarono la testa e il libro, due volte i coltelli colpirono il suo tavolo, ma il direttore continuava a leggere. Io stesso ero sotto un tavolo e a quattro zampe strisciavo verso la cucina e gli zingari sbraitavano e i coltelli lampeggiavano come mosche dorate svolazzavano quei riflessi nel Praga d'Oro e quegli zingari uscirono a ritroso senza pagare dal ristorante e su tutti i tavoli c'era sangue. Due zingari erano distesi a terra e sul tavolo c'erano due dita tagliate nette e un orecchio tagliato con un solo fendente e poi un pezzo di carne. Il dottore, quando arrivò ed esaminò quei trafitti e quei pezzetti, trovò che quel pezzo di carne tagliata era un pezzo di muscolo di un braccio all'altezza della spalla, e soltanto il direttore della scuola ora si prese la testa fra le mani, appoggiò i gomiti sul tavolo e continuò a leggere quel suo libro, mentre tutti gli altri tavoli erano rovesciati accanto all'uscita. Quei tavoli facevano barricata e coprivano la fuga dei calderai, e il capo non seppe far altro che indossare il panciotto bianco decorato con api, mettersi davanti al ristorante e levare le mani in alto dicendo ai clienti che sopraggiungevano «Purtroppo da noi c'è stato un piccolo incidente, apriremo domani». E io dovevo occuparmi delle tovaglie insanguinate, tante impronte di palmi e dita, e dovetti portar tutto nel cortile e accendere la caldaia grande della lavanderia, e la credenziera e una sguattera dovevano lavare e poi far bollire tutto. Io dovevo stendere quelle tovaglie, ma non arrivava la corda, e così lo fece la sguattera, e io le porgevo con le tovaglie bagnate e strizzate e le arrivavo al seno, e lei rideva e sfruttava la cosa per schernirmi. Mi premeva il seno sul viso, lo faceva come per sbaglio, a turno, con un seno e poi con l'altro, poggiato sul mio occhio. Mi oscurava il mondo, tutto era profumato. Quando poi si chinò sulla cesta a prendere una tovaglia, allora fui io a guardare giù fra quei seni dondolanti. Si raddrizzò e quei seni trapassarono da pendenti a eretti. E credenziere e sguattere insieme, quelle donne ridevano e mi dicevano, «Figliolo, ma quanti anni hai? Ne hai già fatti 14. E quando?» Yeah. Era verso sera e soffiava il vento, e quelle tovaglie si erano messe in modo da formare interi paraventi nel cortile, come quelli che mettiamo quando nel ristorante c'è un matrimonio o un gruppo che ha riservato. E io avevo già tutto pronto in sala, e tutto riluceva nuovamente di pulizia. Dappertutto c'erano garofani, secondo la stagione veniva portato un cesto intero di fiori, e io andai a dormire. Ma quando poi ci fu silenzio, e nel cortile le tovaglie sbatacchiavano come se parlassero tra loro, il cortile era pieno di discorsi di mussola, aprii la finestra, e poi scivolai fuori, e in mezzo alle tovaglie, seguendo le finestrelle, raggiunsi il cancelletto, e lo saltai, e presi una stradina, da lampione a lampione. Aspettai sempre nell'oscurità che i passanti notturni mi sorpassassero finché da lontano vidi la scritta verde Dai Paradiso. E così mi fermai e aspettai un momento. Dalle viscere della casa si sentiva stridere un orchestrion e così mi feci coraggio ed entrai. E lì nel corridoio c'era uno sportello, e io stavo lì, e quello sportello era così alto che dovetti tirarmi su con le dita, e lì stava seduta la signora Paradiso e fa: «Che desidera, ragazzotto?» E io dissi che avrei voluto divertirmi un po', e così mi aprì, e quando entrai era seduta lì una signorina giovane dei capelli neri, e aveva una pettinatura alta e fumava, e mi domandò che avrei voluto poi. Io dissi che avrei voluto cenare, e lei di rimando: «E vi dobbiamo portare la cena qui o nel locale?» E io diventai rosso e dissi: «No, io voglio cenare in una chambre separée». E lei mi fissò e mi fece un bel fischio e domandò, e già sapeva la risposta: «E con chi?» E io indicai lei e dissi: «Con lei». E così lei fece di sì con la testa e mi offrì la mano, e mano nella mano mi condusse per un corridoio buio con luci rosse smorzate e aprì una porta. E lì c'erano un piccolo canapè e un tavolo e due sedie felpate, e la luce usciva da qualche parte da dietro una tenda, e dal soffitto cadeva giù in basso come i ramoscelli di un salice piangente. E io mi sedetti e, tastando i soldi, trovai la forza e dissi: «Cena con me? E cosa beve?» E lei disse: «Champagne». E io annuì, e lei batté le mani, e venne un cameriere con una bottiglia e l'aprì, e poi la portò nel camerino e portò i bicchieri e versò. E io bevevo lo champagne, e le bollicine mi salivano nel naso e starnutivo. E la signora beveva un bicchiere dopo l'altro, dopo essersi presentata. Poi le venne fame, e io dissi: «Sì, porti le cose più buone». E lei disse che le piacevano le ostriche, che lì erano fresche. E così mangiammo le ostriche, e altro champagne, e poi ancora. E lei cominciò a carezzarmi i capelli, e mi domandò di dove fossi. E io dissi che ero di un paesino talmente piccolo che il carbone l'avevo visto per la prima volta l'anno prima, e lei ci rise sopra e disse che mi mettessi comodo. E io avevo caldo, ma mi tolsi la giacca, e lei disse che aveva caldo, quindi se poteva anche lei togliersi i vestiti, e io l'aiutai e le riposi il vestito su una sedia, e lei mi sbottonò i calzoni, e ora sapevo che del paradiso tutto doveva essere non carino, non bello e delizioso, ma paradisiaco. Mi prese per la testa e se la strinse tra i seni, e quei seni profumavano. Chiusi gli occhi ed era come se avessi voglia di dormire, tanto belli erano quel profumo e quelle forme e la delicatezza della pelle. E lei mi spingeva la testa sempre più in giù, e io le annusavo il ventre, e lei ansimava, e quella bellezza proibita era tale che io ormai non desideravo niente altro che questo, per questo Avrei risparmiato ogni settimana con i wurstel bollenti 800 corone e più. Avevo uno scopo, bello e nobile. Come diceva sempre papà, avere sempre uno scopo e sarò salvo, perché avrò per che cosa vivere. Ma la cosa era ancora a metà strada. Yarushka pian piano mi sfilò i calzoni, tirò giù le mutande e mi baciava l'inguine, e io ad un tratto ero così scosso e pieno di brividi per quel che succedeva dai paradiso che mi raggomitolai tutto e dissi: «Che sta facendo, Yarushka?» E lei si riprese, ma quando mi vide non desistette. Mi prese nella bocca e io la respingevo, ma lei era come fuori di sé. Mi teneva nella bocca e muoveva la testa e aumentava velocemente quei movimenti. Appena la respingevo non la scostavo più, ma mi inarcai tutto e la tenevo per le orecchie e sentii come colavo, come fosse completamente diverso da quando lo facevo da solo. Come quella cosa l'avrebbe bevuta da me fino all'ultima goccia, la signorina dai bei capelli, con gli occhi chiusi, avrebbe bevuto da me ciò che io schizzavo e lanciavo con disgusto nel carbone in magazzino o nel fazzoletto a letto. Quando si tirò su, disse con voce piena di stanchezza: «E adesso per amore». Ma io ero troppo commosso e troppo appassito, tanto che feci resistenza e dico: «Ma io ho fame, non ha fame anche lei?» E siccome avevo sete, prese il bicchiere di Yarushka. Si gettò verso di me, ma non riuscì a impedirmi di bere. E io, deluso, deposi il bicchiere, perché dentro c'era non champagne, ma una bibita giallastra. Fin dall'inizio aveva bevuto limonata, e io pagavo come champagne, e io lo sapevo solo ora. Feci una risata e ordinai un'altra bottiglia, e quando il cameriere la portò, l'aprii e versai io stesso, e poi ancora mangiammo di nuovo, e da dentro il locale strimpellavo un organetto, e quando finimmo la bottiglia e io cominciai a essere un po' ubriaco, scivolai di nuovo in ginocchio e posai la testa nel grembo della signorina, e baciavo, stropicciavo la lingua contro quella bella barba e i capelli, ma leggero com'ero, la signorina mi prese per le ascelle e mi tirò sopra di sé, spalancò le gambe, e io, liscio come l'olio, entrai per la prima volta dentro una donna. Ciò che avevo desiderato, ecco che succedeva. Lei mi stringeva a sé e mi sussurrava di tenermi il più a lungo possibile, ma io feci soltanto due movimenti, al terzo schizzai dentro la calda carne e lei si tese ad arco, toccando con i capelli e i piedi il canapè. E io giacevo sull'arco del suo corpo e fino all'ultimo momento prima di afflosciarmi restai infilato fra le sue gambe spalancate, finché mi tirai fuori e mi distesi accanto a lei. Ansimava. Si distese e mi toccava a memoria, mi carezzava il ventre e tutto il corpo, e poi venne il tempo dei vestiti, e venne il tempo dei saluti, e il tempo del conto. Il cameriere contava, contava, e mi porse un conto di 720 corone, e io stavo andando via, ma presi ancora due biglietti da 100 e gli detti a Yarushka, e quando uscii dal paradiso mi appoggiai dietro il primo angolo, e nel buio stavo appoggiato così, sognante. E per la prima volta avevo saputo che cosa accade in quelle belle case dove stanno le signorine. Ma mi dissi: «Hai imparato la lezione. Domani stesso vieni qui e fai di nuovo tutto il signore, perché lì ho sbalorditi tutti. Sono venuto qui come piccolo che porti wurstel bollenti alla stazione, e sono andato via meglio di qualsiasi signore che siede al Praga d'Oro, al tavolo dei clienti fissi, dove possono andare solo i notabili, solo i gentiluomini della città». Vi basta? Con questo oggi finisco. Fausto Paravidino ha letto «Ho servito il re d'Inghilterra» di Bumil Rabal, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.